Salva Danaio di Deborah Rosciani. Giornata, buon inizio settimana a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Riprendiamo dopo il ponte del primo maggio, ritorniamo oggi al tema dei prestiti che, come sapete, ciclicamente torna a Salva Danaio. Noi conosciamo diverse forme di prestito, quello personale, la cessione del quinto dello stipendio, c'è il mutuo che è il finanziamento più noto, è il più lungo naturalmente, a scadenze molto più lunghe, e comunque anche questo rientra nell'ambito generale appunto del fenomeno del credito al consumo. C'è poi la forma molto diffusa del prestito finalizzato, che è quello che viene erogato da banche finanziarie a fronte di un contestuale acquisto di un bene, tipicamente l'auto, ma anche il divano, il televisore, il frigorifero nuovo. In genere finanziamenti per piccoli importi ripagabili in piccole rate. Oggi parliamo proprio di questo tipo di prestiti perché sono al centro di un'indagine condotta da Altro Consumo, che visitando 239 punti vendita in 7 città italiane ha scoperto che le condizioni che vengono praticate su questi prestiti non sarebbero particolarmente trasparenti e a volte sono anche un po' più onerose del previsto. E allora intanto attiviamoci anche come consumatori, cercando di avere tutte quelle informazioni che è necessario avere quando ci accingiamo a sottoscrivere un prestito di questo tipo, quando sottoscriviamo questa tipologia di prestito, che è comunque a nostro avviso anche un modo utile per muovere i consumi, per poter acquistare un bene che magari non potremmo pagare tutto in contanti. Però siccome a volte le condizioni, come dicevamo, vengono ritenute non del tutto trasparenti, allora stamattina noi cerchiamo di indagare su questo e ci aiuteranno Anna Vizzari, Ufficio Studi Economico-Giuridici di Altro Consumo. Vizzari, buongiorno. Buongiorno a voi. Bentornata. Grazie. A Salva Danaio e bentornato anche al professor Umberto Filotto, segretario generale di Assofin, che è l'associazione che raggruppa i principali operatori finanziari che operano nel comparto del credito al consumo e finanziamento immobiliare. Bentornato. Buongiorno. Il numero verde per le vostre telefonate è sempre lo stesso, è l'800240024. Raccontateci dell'ultima volta che avete fatto un acquisto a rate, il televisore al plasma nuovo, piuttosto anche che una vacanza, insomma, acquistata a rate. Avete subito compreso sin dall'inizio, vi è stato spiegato bene il funzionamento del prestito e tutti gli oneri applicati appunto al finanziamento. Ci potete anche scrivere al 349-238-6666. Avvio di settimana piuttosto brillante per la borsa, come abbiamo avuto modo anche di indicare nel giornale radio. Gli indici tutti in rialzo: Parigi più 1,11, Francoforte più 1,74, mercato di Londra chiuso per il Bank Holiday, Milano doppia tutti, guadagna il 2,12% sull'S&P MIB, il MIPTEL più 2%, grazie stamattina particolarmente a Fiat, che continua a confermare i suoi livelli massimi da 6 mesi a questa parte, in attesa di vedere come si concluderà in giornata l'incontro con il governo tedesco per aprire anche il versante tedesco delle alleanze internazionali del lingotto. Con Opel, Fiat in rialzo del 6%, dicevamo, ad 8 euro, segue poi CIR più 6, Banco Popolare più 4,57, Prysmian più 3,71, abbiamo dei rialzi superiori ai 3 punti percentuali anche per Mondadori, per Bulgari, per Unicredit, per STM, per Tenaris, quindi bene le banche ma bene anche il settore energetico, grazie al petrolio che è a $53 al barile. Non è invece una buona giornata per Snam Rete Gas, che continua ad essere stamattina il peggior titolo della giornata, meno 2% in questo momento. A distanza segue il ribasso dello 0,7% di A2A, Telecom meno 0,26%, e questi sono gli unici tre titoli negativi a Milano in questo momento, almeno sull'S&P MIB. Insieme a Fiat stanno volando anche tutti gli altri titoli della galassia del lingotto. Oltre all'esito del vertice con il governo tedesco, aspettiamo anche i dati sulle immatricolazioni relativi al mese di aprile, ma li conosceremo solamente stasera alle 18. L'euro sul dollaro quota 1,32,60. Questi principali temi di borsa. Noi però andiamo subito al tema di questa mattina e sentiamo un po' che cosa dice questa inchiesta di Altro Consumo sui prestiti finalizzati. Compri oggi, paghi domani. Uno slogan che gli italiani conoscono benissimo e che negli ultimi anni ha fatto impennare le percentuali degli acquisti effettuati tramite il credito al consumo. Le offerte proposte attraverso mirate campagne pubblicitarie hanno infatti convinto anche i consumatori più restii ad abbandonare il pagamento in contanti per passare a quello a rate. Un metodo semplice, che consente di acquistare subito un bene, come l'auto, il frigo e il televisore, per poterlo poi ripagare con comode e piccole rate ogni mese. Il tutto senza spese o al limite con una percentuale molto bassa relativa ai tassi di interesse. ma è proprio sugli interessi che bisogna prestare molta attenzione. Ecco perché di pari passo con il boom del pagamento rateale c'è sempre stata anche una campagna da parte delle associazioni dei consumatori nel mettere in guardia gli italiani da possibili fregature. Quali? In prima linea occorre fare attenzione al TAEG, il tasso annuo effettivo globale, che comprende tutte le spese legate al finanziamento e che non è sempre ben evidenziato in sede di stipula del contratto. Anzi, secondo una recente indagine condotta da Altro Consumo, su 285 offerte di rateizzazione, addirittura nel 70% dei casi non è stata fornita alcuna informazione o i dati sul TAEG comunicati al consumatore erano sbagliati. Non solo. Altri dati dimostrerebbero che su 239 punti vendita l'atteggiamento generale è improntato alla scarsa informazione o all'errore di calcolo sui costi effettivi. A Roma, in un negozio di mobili, una proposta a tasso zero in realtà ha un reale tasso di interesse del 25,68%, superando anche la soglia del tasso d'usura. 800 24 00 24, ho spostato il microfono, questo rumore è riconducibile a questo spostamento, è il numero verde per i vostri interventi, 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi sul tema di questa mattina. Vedo già che c'è qualche movimento da parte degli ascoltatori che ci racconteranno come si è concluso anche un acquisto di un bene, acquisto effettuato poi, il cui pagamento appunto è stato scelto poi di effettuarlo a rate. Allora, Anna Vizza, ricomincerei con lei. Abbiamo spiegato molto sinteticamente quello che è emerso dall'inchiesta sul campo, perché la vostra modalità di condurre inchieste è proprio questa. Tra questi punti vendita, negozi, centri commerciali, ma anche piccoli centri, appunto piccoli e negozi, è andata anche lei ad indagare direttamente in qualche punto vendita, tra l'altro? No, ho inviato qualcuno sul campo a fare queste rilevazioni. Innanzitutto vorrei dire che come associazione noi non vogliamo demonizzare assolutamente il credito al consumo e i prestiti finalizzati, che hanno una funzione essenziale anche per la crescita economica. Quello che noi vogliamo è che comunque siano offerti al cliente in maniera trasparente e chiara, e che sia data la possibilità al consumatore di poter confrontare le condizioni prima della stipula. Cioè, il consumatore deve sapere prima di concludere il contratto quali sono effettivamente le condizioni che va a sottoscrivere. Guarda, che emerge dalla nostra inchiesta è che invece questo non è possibile. E infatti sono assolutamente sicura, tra l'altro, che anche Asso, fino adesso il professor Filotto ce lo ribadirà se lo vorrà, è assolutamente convinta, insomma, che il percorso da fare sia questo. Quindi è un settore che serve, la cui crescita poi si è vista molto bene anche negli ultimi anni, quindi è segno evidente che probabilmente c'era anche un'esigenza da parte della nostra popolazione di poter così rendere un po' più dinamico questo ambito, perché permette anche di soddisfare qualche desiderio che altrimenti non potremmo soddisfare. Detto questo, mi piacerebbe appunto avere qualche dettaglio in più rispetto alle modalità con cui avete condotto l'inchiesta. Quindi avete interrogato gli addetti ai lavori, allora, in che modo? Siamo recati direttamente nei punti vendita come normali clienti interessati ad acquistare un elettrodomestico, un attrezzo sportivo, dei mobili, ovviamente a rate, e abbiamo chiesto informazioni sul finanziamento. Abbiamo voluto verificare, oltre alle informazioni date dagli addetti, anche la presenza sul posto dei foglietti informativi e della famosa informativa precontrattuale, che in base alla normativa sulla trasparenza del 2003 il cliente deve avere se lo richiede, se richiede il contratto prima della stipula. Allora, i foglietti informativi non ci sono, cioè la maggior parte, cioè tutti i punti vendita visitati non hanno consegnato il foglietto informativo al cliente. Abbiamo trovato invece una montagna di volantini pubblicitari che sembrano sostituire il foglietto, ma che in realtà ovviamente non danno le stesse informazioni. Per quanto riguarda il contratto, ne abbiamo recuperato soltanto due. E quindi appunto ovviamente la trasparenza non c'è. Io faccio l'avvocato del diavolo, anche se Umberto Filotto, che conosco molto bene, non ha bisogno di un legale, dice non sono certo il diavolo. Non è colpa del punto vendita se la modalità con cui vengono trasferite al consumatore le informazioni sul finanziamento è scarsa, incompleta? Cioè, voi prendete anche in considerazione questo aspetto? Poi ci faremo spiegare da Filotto, realtà, che responsabilità ha anche il centro commerciale in questione. Cioè, in realtà diciamo che la normativa sulla trasparenza dà all'intermediario la responsabilità di fornire ai soggetti che effettuano l'offerta fuori sede i dati di trasparenza, e che poi spetta all'intermediario verificare se il soggetto rispetta questi obblighi, quindi in realtà dovrebbe essere comunque l'intermediario, la finanziaria, che verifica sul posto se poi l'addetto alla vendita consegna i foglietti che dovrebbe consegnare da trasparenza. È anche vero che effettivamente ci troviamo di fronte, ci siamo trovati di fronte a persone che vendevano mobili, elettrodomestici o attrezzi sportivi e allo stesso tempo dovevano collocare un prestito. Infatti. Evidentemente si trattava di personale non formato, ma anche a questo dovrebbe pensare la finanziaria. Ecco, tra l'altro questo è un aspetto sul quale ci siamo soffermati parlando in senso generale del fenomeno del credito al consumo anche in altre trasmissioni, allora oggi magari vale la pena rafforzare un po' di più l'analisi su questo, su questi punti. Professor Filotto, allora, intanto il tema, come dire, del prestito finalizzato è molto interessante nel nostro paese, anche se poi l'ultima volta che l'ho invitato probabilmente avevamo parlato di una tendenza alla crescita del settore del finalizzato un po' meno marcata rispetto al passato, perché adesso abbiamo avuto questo sorpasso fatto dal prestito personale attribuito alla crisi economica e quant'altro, però insomma è un settore che continua a crescere piuttosto bene. Sì, c'è stato sicuramente questo, diciamo, ribilanciamento tra finalizzato e non finalizzato, non tanto per la crisi economica quanto piuttosto perché consumatori che hanno, diciamo, sperimentato il credito finalizzato poi dopo si sono evidentemente trovati bene con chi gli ha offerto questo prestito e quindi, diciamo, accedono direttamente ai servizi offerti dal finanziatore. Il credito finalizzato resta comunque uno degli elementi, diciamo, fondamentali per, diciamo, supportare i consumi nel nostro paese, che è il tema appunto che abbiamo anche indicato all'inizio. Allora, è un obbligo per l'intermediario, parlo del grande centro commerciale che vende hi-fi, televisori, frigoriferi, essere chiaro sulle condizioni del finanziamento. In che rapporto è il rivenditore con la finanziaria che poi invece lo eroga direttamente? Allora, la premessa è che evidentemente noi tutti, come diceva lei stessa prima, siamo fortemente interessati al fatto che vi sia la massima trasparenza nel momento in cui viene venduto il finanziamento. Quali sono i problemi? I problemi sono di vari ordini, uno dei quali è rappresentato dal fatto che la vecchia disciplina di trasparenza tendeva a essere, come dire, un po' ridondante negli adempimenti formali, poco efficace nei controlli e nel contenuto effettivo informativo. Adesso la normativa è cambiata? La normativa sulla trasparenza sta cambiando e in prospettiva andiamo verso il recepimento della nuova direttiva sul credito al consumo che contiene alcuni aspetti positivi, altri purtroppo sono anche qui, vanno nella direzione di una ridondanza delle informazioni. Detto questo, vorrei segnalare due cose. La prima è che certamente gli intermediari finanziari hanno degli obblighi, che sono evidentemente quelli di mettere a disposizione del punto vendita il materiale, chiamiamolo così, di trasparenza e di verificare. Ovviamente lo si può fare a campione, non è che si possa essere, diciamo, presenti in ogni singolo punto, in ogni singolo momento, che questo venga effettivamente messo a disposizione. Allora, il fatto che non sia stato trovato può significare due cose. La prima, che tenderei ad escludere che non sia stato trasmesso dal finanziatore. La seconda, che in qualche caso l'addetto al punto di vendita non abbia, diciamo, espletato in maniera puntuale quello che sono i requisiti operativi che sono previsti quando viene venduto un finanziamento. Un aspetto che secondo me però è importante sottolineare, butto, come dire, un sasso nello stagno, è premesso che purtroppo noi non abbiamo avuto la possibilità di vedere nel dettaglio questa indagine di altro consumo perché è accessibile solo sotto password, noi non abbiamo la password e quindi purtroppo non sappiamo esattamente come è stata condotta questa indagine. Ma da quello che si capisce dall'indagine, diciamo dal comunicato stampa, si comprende che le modalità di calcolo del TAEG sono un po' soggettive, nel senso che altro consumo, anticipando probabilmente i contenuti di una normativa prossima futura, include nel TAEG delle voci che oggi la normativa esclude, per esempio le spese d'incasso, e questo naturalmente produce un TAEG che è diverso rispetto a quello. Quindi, per esempio, se io immagino, avendo effettuato un finanziamento, di pagare 70 euro al mese, poi facendo il prelevo della rata me ne trovo 73, quella la spesa d'incasso che banalmente non deve essere, per esempio, considerata nel TAEG. Allora, la norma prevede che quando queste spese d'incasso, che peraltro sono spese che non sono, passatemi il bisticcio, incassate dal finanziatore, ma sono incassate da quello che cura l'incasso. Quando queste spese siano ordinarie, cioè sono di fatto poi il riversamento di un onere a terzi, questo non debba essere compreso. Quindi in realtà sono credo molto meno di 3 euro, ma insomma. Fatto un esempio. No, perché ho trovato tra l'altro nell'indagine invece di Altro Consumo che mi hanno mandato che c'è anche un caso di un ascoltatore, di un fruitore in sostanza del servizio di Altro Consumo che invece denuncia una situazione di questo tipo: 24 euro con la prima rata di un finanziamento fatto per acquistare un TV Color, scopro che mi verranno addebitati circa 3 euro a rata tra estratto conto e imposta di bollo. Vabbè, in questo caso l'imposta di bollo non è l'incasso, sì, ha ragione. Anna Vizzari. Allora, come avete calcolato questo tag? Avete inserito dentro dei parametri che non sono contemplati dalla normativa? Allora, non abbiamo sicuramente inserito dentro l'imposta di bollo che la normativa non prevede. Sulle spese di incasso, che però pure quella è una bella sorpresa, perché sono a volte botte da 15 euro anche nella prima rata. Esatto, 14,62 nella prima rata, però appunto per legge non deve essere inserito nel tag attualmente, poi probabilmente con il recepimento della nuova norma, della nuova direttiva, anche questa spesa andrà a essere inclusa nel tag, però noi non l'abbiamo considerata. Per le spese di incasso rata, quando si tratta di importi di una certa consistenza, abbiamo detto 3 euro ma anche 5 euro in alcuni casi, è evidente che non può trattarsi di una semplice spesa legata all'incasso della rata, c'è sicuramente una componente che va all'intermediario, a quel punto probabilmente anche utilizzando la normativa attuale quella spesa dovrebbe entrare nel tag. Comunque il tag è stato da noi calcolato utilizzando gli elementi di costo e le rate che ci venivano comunicati dagli addetti alla vendita. Una differenza tra tag comunicato pari a zero e tag poi effettivo utilizzando le rate del 25% evidentemente non può essere legata soltanto alla presenza delle spese di incasso rata nel tag. Si tratta semplicemente di informazioni date in maniera non corretta, evidentemente quelle rate che venivano comunicate non erano quelle poi legate al prodotto. Quindi possiamo dire, dottoressa Vizzari, che a prescindere dal fatto che ovviamente le finanziarie possono fare molti altri passi avanti per come dire migliorare gli standard di comunicazione verso la clientela, che qua c'è qualcosa che non funziona proprio nel momento in cui c'è un intermediario non propriamente addetto al ramo finanziario, esatto, che intermedia un prestito. Ma infatti a nostro avviso la finanziaria dovrebbe investire proprio nella formazione delle persone che offrono questi prestiti, perché il cliente che va nel punto vendita non può conoscere la preparazione finanziaria della persona che gli colloca il prestito, si fida delle informazioni che riceve. È evidente che la finanziaria dovrebbe investire in formazione, magari anche utilizzando supporti telematici nei punti vendita, magari utilizzando dei programmi che diano la possibilità agli addetti di individuare il tag per il prestito specifico chiesto dal cliente. Non è d'accordo, professor Filotto, abbiamo 30 secondi, poi dobbiamo andare in pausa, poi torneremo su questo punto. Siamo evidentemente d'accordo. Il problema è che da quel poco che si capisce dal materiale che io ho visto, il punto di divergenza tra le rate dichiarate e le rate calcolate sono le spese di incasso. E quindi purtroppo non ho elementi di altro tipo. Siamo d'accordo, per altri versi, che il personale vada formato, che la trasparenza debba essere massima. Gli strumenti abbiamo anche provato a proporli, sarebbe bello, oltre a fare questi incontri, poter collaborare con l'associazione dei consumatori. Guardi, vi prometto su che punto. Suggellerò un accordo di collaborazione tra tutti alla fine di questa trasmissione per poter fare fra qualche settimana. Anni ci proviamo. Va bene, allora eccoci ritrovati in diretta. Questa mattina a Salvadanaio siamo ritornati ad affrontare un tema a cui siete molto affezionati, il settore dei prestiti, soprattutto di quelli finalizzati, quelli che sottoscriviamo mediamente per acquistare l'automobile, per acquistare l'arredamento nuovo della casa, il frigorifero, il televisore al plasma, ma anche insomma uno tradizionale, perché c'è questa inchiesta di Altro Consumo che è stata divulgata nei giorni scorsi, secondo la quale le offerte di rateizzazione proposte da quasi 240 punti vendita visitati in 7 città italiane sono offerte di rateizzazione non propriamente trasparenti. Allora questa mattina li abbiamo chiamati, gli amici di Altro Consumo, per farci spiegare come questa inchiesta è stata condotta, quali sono le criticità più evidenti che sono state riscontrate. Ovviamente a difesa della categoria delle società finanziarie, Umberto Filotto, segretario generale di Assofin. Allora, prima di tornare al tema a cui ci eravamo lasciati, vorrei cominciare a sentire anche alcuni ascoltatori, cominciando da Pier Giorgio da Alessandria, perché tocca un punto che tocca anche l'indagine di Altro Consumo. Pier Giorgio, sì, buongiorno. Benvenuto. Sì. Mi sente? Sì, la sento benissimo. Sì. No, io volevo intervenire per quanto riguarda i finanziamenti a tasso zero, sì. In quanto io avevo una rivendita, vendevo fondamentalmente articoli di finitura per la casa, camini e quant'altro. Ah, quindi permetteva il pagamento rateale, Pier Giorgio? Certamente, perché mi era stata offerta la possibilità da diverse finanziarie di poter comunque dare questo tipo di servizio alla mia clientela. Si era formato lei, Pier Giorgio, per fare il finanziamento, oltre a vendere ovviamente gli articoli della sua attività, doveva anche, come dire, essere in grado di... Certamente, la formazione mi era stata fatta dalla finanziaria stessa che mi aveva proposto questa opportunità. Il problema, e volevo spiegare un attimino la cosa sul tasso zero, che secondo me c'è una disinformazione generale sul tasso zero, in quanto chi veniva da me, utente finale, era convinto che il tasso zero significasse non pagare interessi. Allora, è vero, nel senso che se io vendevo un articolo da 1200 euro per 12 mesi pagavano 100 euro al mese, ma a me quel tipo di finanziamento, cioè farmi prestare i soldi, ha comunque un costo. Il costo invece di essere riversato sull'utente finale, nominalmente viene riversato sul rivenditore che ero io. Io questo costo naturalmente lo andavo a ricaricare su quello che era il prodotto. Io come chiunque altro. Però abbiamo scoperto un'altra faccia della medaglia. No, io l'ho voluta comunque porre all'attenzione questa cosa, perché il finanziamento a tasso zero fondamentalmente non esiste. Il tasso zero è un qualche cosa che al rivenditore ha un costo, gli costa. Quindi se io avessi potuto vendere, se io ho un articolo e lo posso vendere con uno sconto normale a 900 euro, è lo sconto migliore che posso dare all'utente finale, e devo andare in promozione su un tasso zero, è normale che lo venderò a 980 euro per rifare dell'80 euro che la finanziaria mi chiede. Bene, insomma, la ringrazio che ci ha anche dato questa indicazione, perché adesso staremo molto più attenti anche da questo punto di vista. Però Pier Giorgio, le vorrei fare un'altra domanda per poi dar spazio ai nostri ospiti. Lei scoraggiava il pagamento in contanti? Io le dico che cosa ero arrivato a fare. Che proprio a me mi sento una persona comunque onesta, quando mi arrivava le persone, io gli dicevo subito: guarda, mica pure, se vuole il tasso zero prima, perché almeno sto un po' più alto, mi esce fuori la finanziaria. Glielo dicevo. Guardi. Al che si mettevano a ridere, dicevo: ma come mai? Gli spiegavo. Cioè Filotto ha detto che la vuole invitare a pranzo perché vuole sapere qualcosa di più rispetto a questo. Pier Giorgio, comunque, alla fine vedevo che tante volte era più apprezzato un extra conto piuttosto che una, credo, dilazione. Che in un grande babelle comunque aveva magari un punto vendita molto piccolo in un grande centro commerciale, la vedo assolutamente impossibile un'operazione di questo tipo. Professor Filotto, io so che questa domanda gliel'avrò fatta come minimo a lei, a Piano Mortari, che è il suo collega di Asso, fino al presidente dell'associazione, 2 milioni di volte. Ci può spiegare la politica del tasso zero in cosa consiste? Beh, allora, intanto abbiamo avuto un esempio di politica che non mi sentirei di raccomandare. Comunque, la politica del tasso zero significa che c'è un prezzo di listino. Chiaro che se il prezzo di listino viene maggiorato quando uno chiede il finanziamento, non siamo in una condizione di tasso zero. Ma c'è un prezzo di listino e viene offerto un finanziamento che corrisponde a quel prezzo di listino. Il motivo per cui viene fatto, è vero quello che evidentemente l'operazione deve comportare da qualche parte, diciamo, un ricavo, ma normalmente sono il venditore o il produttore del bene che, in condizioni evidentemente per stimolare il mercato, pensiamo all'auto, quello che è successo nei mesi scorsi, conveniva, diciamo, rinunciare a una parte di margine pur di poter offrire al consumatore la possibilità di acquistare a rate il bene. Allora, l'importante è che il tasso zero sia zero per il consumatore. Poi, nell'economia dell'operazione, se il produttore rinuncia a una parte del proprio margine, credo che nessuno glielo possa vietare. Anna Vizzari. Allora, innanzitutto, quanti appunti ha preso nel corso degli ultimi 5 minuti? Soprattutto quello del prezzo è ricaricato, sì, è molto interessante, è un altro punto di vista da analizzare prossimamente. No, volevo aggiungere anche sulla politica del tasso zero, che innanzitutto, vabbè, ricordiamo che il tasso zero è veramente zero se il TAEG è zero, quindi non ci devono essere altre spese. Quanta distanza può esserci fra i due? Tra tasso zero e TAEG zero, esatto, non zero, anche di diversi punti percentuali, abbiamo trovato anche 8,5, 8,90 di differenza. Comunque, al di là di tutto, devo dire anche che abbiamo verificato, e non soltanto noi, anche l'antitrust, che spesso proprio il target zero serve a veicolare la vendita aggressiva di altri prodotti, cioè le carte di credito revolving. A inizio aprile l'antitrust... Beh, non è necessariamente che debba essere aggressiva la vendita di altri prodotti. Che non è richiesta direttamente dal consumatore. Si cercano dei nominativi, è come costituire un database. Esatto, ecco. Anche quando uno vende un'auto, magari ci vende anche l'autoradio o l'aria condizionata. Allora, sì, questo il fatto che ci siano dei prodotti che possono eventualmente essere venduti di per sé non rappresenta, non vedo che problema rappresenti. No, infatti, Anna Vizzari, perché è un così grande problema? No, il fatto di comunque utilizzare la politica del tasso zero per poter, come dire, acquisire nominativi e poter continuare a promuovere altre offerte commerciali, di cui tra l'altro ho testimonianza di un ascoltatore fra un istante. La lascio però concludere. Però sì. Appunto vorrei dire che appunto servono un po' a mascherare anche questa vendita, nel senso che il cliente spesso non è consapevole quando sottoscrive il prestito fidalizzato che magari all'atere ha anche aperto una linea di credito con carta revolving. È un altro grande aspetto. E quindi altre caratteristiche. Un altro grande aspetto della vostra indagine. Sì, adesso ci arriviamo. Andrea da Verona, cosa le è successo? Sì, eccomi qua, mi sentite? La sento benissimo, che voce squillante poi tra l'altro che ha. Sì. Allora, a febbraio dell'anno scorso ho fatto un finanziamento di 12.000 euro per un'auto usata. Sì. Lo pago 11 mesi per 260 euro al mese. Sì. E dopo lo estingo perché mi ero rotto. Ecco. Lo pago quasi tutto, pago sì. 11.000 euro. Sì. E quello mi sembra molto strano, aver pagato 11.000 euro. No, allora non ho capito, mi scusi. Lei ha pagato, ha fatto un finanziamento per 12.000 euro. Esatto, di 12 mesi? Quanto? No, 60 mesi. 60 mesi. 260 euro al mese. Sì. Dopo 11 mesi che pago la rata, fortunatamente avevo i soldi, estingo il finanziamento. Sì. Lo pago 10.900 euro. Quindi lei praticamente in un anno non aveva, aveva rimborsato praticamente 1.000 euro? 1.100. Quindi, e quello insomma... mi sembra molto strano. Sì. Cioè, ecco. Seconda cosa, per due volte mi hanno mandato una carta di credito revolving sì. da me non richiesta, sì. che io appena mi è arrivata a casa l'ho fatta in 1.000 pezzi con la forbice. E c'era che è il suggerimento bene. Anche che altro consumo dà molto esplicitamente. Sì, c'era scritto... C'era scritto un piccolissimo dei tassi che andavano dal 18 al 19%. Vabbè, l'importante è che ci fosse scritto. Andrea, detto questo, no, vabbè, andiamo al primo punto. Professor Filotto, come funziona un po' come le assicurazioni sulla vita, che nei primi anni di versamento ci sono tanti e tali caricamenti che nel momento in cui magari decidiamo di portare a casa il finanziamento che abbiamo fatto sui tempi anticipati rispetto al previsto, scopriamo che abbiamo versato pochissimo perché in realtà abbiamo pagato un sacco di spese. Come se lo spiega lei che lui abbia versato a malapena 1.000 euro questo finanziamento? Forse avrebbe dovuto rimborsare già un po' di più. Naturalmente dovrei avere davanti il piano d'ammortamento, quello è vero, sinceramente così all'impronta mi risulta difficile rispondere. Un finanziamento di 60 mesi, cioè 5 anni, sicuramente se ha una rata costante, quindi rata fissa, come tutti i finanziamenti rateali, diciamo ha le prime rate che sono composte da più interessi e da meno capitale e le rate finali che sono composte da più capitale e meno interessi. Quindi mi trovo evidentemente non nella possibilità di dire giusto o sbagliato il calcolo, ma diciamo si può spiegare in questo modo, cioè col fatto che effettivamente le prime rate sono composte di più interessi e meno capitale. Ma è così difficile eventualmente estinguere in anticipo un prestito? Che tipo di penali devono essere versate generalmente per anche importi piccoli, che generalmente sono gli importi appunto sottoscritti nell'ambito del credito al consumo? Allora, il credito al consumo prevede da sempre, o meglio dall'entrata in vigore della vecchia direttiva, la possibilità per il consumatore di estinguere anticipatamente il finanziamento, senza motivazione, senza nessun tipo di spiegazione da dare. Originariamente con il versamento di una penale pari all'1% del capitale residuo, con l'entrata in vigore diciamo dei decreti Bersani, da considerarsi che queste penali siano anche in questo caso cancellate anche per il credito al consumo. Tutti i contratti di durata sono sostanzialmente parificati adesso poi Ma questa possibilità è sempre esistita, quindi non negoziando, lei dice, con la società che eroga il finanziamento si può arrivare ad un accordo di questo tipo? Non c'è anche bisogno, se c'è un di contratto. Negoziare, nel senso che il consumatore ha diritto di dire io voglio estinguere anticipatamente, non c'è nessun... Ah no, pensavo si riferisse al non versamento della penale per l'estinzione anticipata. Dipende da quando è stato evidentemente acceso il finanziamento, ma chiaramente nel momento in cui sono entrati, assimilando, parificando i contratti di credito al consumo a tutti i contratti di durata che hanno quel tipo di caratteristiche. Allora, l'altro aspetto sollevato dall'ascoltatore, che dice: da questa finanziaria, anche se io ho chiuso il rapporto perché ho estinto anticipatamente tutto il finanziamento, mi continuano a mandare questa revolving. E che succederà mai? Allora, Salvadanaio, l'ultimo ascoltatore che abbiamo ascoltato ha comprato un'auto, ha sottoscritto un finanziamento per pagarla a rate, e dopodiché ha detto si è trovato insomma la liquidità, ha deciso di chiudere questo finanziamento, ma abbiamo un attimo un problemino, chiuso il finanziamento. In sostanza l'ascoltatore ci raccontava: la finanziaria continua a mandarmi la revolving, me ne ha mandate due, io non ne voglio sentir parlare. Ma insomma, Anna Vizzari, so che avete rilevato anche questo aspetto nella vostra inchiesta di cui parlavamo ad inizio trasmissione. Sì, è la famosa vendita aggressiva di cui parlavo prima, nel senso che le carte revolving sono spesso piazzate direttamente nella catena di vendita, quindi direttamente nei negozi, senza che il cliente ne abbia fatto espressa richiesta, o magari c'è anche nel modulo una casella che il cliente ha barrato più o meno consapevolmente, relativa appunto all'apertura di una linea di credito con carta revolving, per cui poi alla fine ci si trova appunto arrivare a casa una carta di credito revolving che magari utilizzata nel negozio in cui si è fatto il prestito ha dei tag effettivamente bassi, abbiamo verificato anche dei tag zero, ma poi se utilizzata nel circuito di appartenenza, quindi Visa o Mastercard, ha dei tag elevati, abbiamo trovato delle carte che hanno dei tag del 24%, in media nel campione di 16 carte analizzate il tag è del 19-89%, se appunto utilizzare carte sono utilizzate nel circuito. Quindi insomma anche lì impariamo intanto bene il funzionamento di questo strumento, se riteniamo che ci serve per gestire un po' meglio il nostro bilancio familiare, si può sicuramente utilizzare, a patto che si capisca molto bene la dinamica dell'applicazione del tasso. Volevamo fare una precisazione con il professor Filotto sul tema che affrontavamo prima, la penale di estinzione anticipata di un finanziamento che non è il mutuo. Sì, che non sia il mutuo, perché mentre nel mutuo appunto non è prevista l'applicazione di alcuna penale, per il credito al consumo è ancora possibile applicare la penale dell'1%, ripeto, del capitale residuo. Perfetto, la ringrazio. Grazie per questa precisazione. Allora, intanto andiamo avanti con altri ascoltatori. Sì, il primo era Andrea da Verona, di cui non mi ricordavo il nome, adesso lo salutiamo. E comunque, detto questo, se ci arriva la revolving che non vogliamo utilizzare, professor Filotto? Se arriva la revolving che non vogliamo utilizzare, dobbiamo semplicemente buttarla via. Naturalmente noi ci stiamo impegnando affinché la trasmissione di queste revolving, la cui richiesta è spesso contenuta nel contratto di credito finalizzato, ma l'invio di questa revolving si è accompagnato da un'informativa molto chiara su questo aspetto, e cioè che il consumatore non deve far altro non solo di non attivarla ma di tagliarla e buttarla via. Se invece ritiene di considerare questa un'offerta interessante, potrà attivarla ed utilizzarla. Infatti no, tra l'altro quello che volevo anche dire, che poi a prescindere dal fatto che magari la dinamica dell'applicazione dei tassi di interesse non si riesce a comprendere bene, è anche uno strumento che è stato introdotto molto di recente nel nostro paese, quindi forse anche le finanziarie hanno avuto, come dire, la necessità di far conoscere questo prodotto del credito al consumo attraverso questa modalità. Professor Filotto, non so, adesso non voglio essere eccessivamente giustificativa dell'atteggiamento delle finanziarie, però al contrario degli Stati Uniti, che invece ne fanno un uso eccessivo anche. L'utilizzo però, delle carte di credito in Italia è molto contenuto, è proprio in particolare, la revolving nella fattispecie. In generale l'utilizzo delle carte di credito, le carte revolving in particolare, l'offerta di questo strumento, che è comunque uno strumento di finanziamento e quindi di per sé non, come dire, non aggressivo nei confronti del consumatore, deve essere fatta dando al consumatore tutte le informazioni necessarie, chiarendo quali sono non solo i costi dell'utilizzo, ma anche la discrezionalità da parte del consumatore se utilizzarlo o meno, e nella misura in cui queste cose avvengano, poi come dire, si tratta di farne un uso intelligente. Dante da Roma, cosa le è successo? È incappato nel tasso zero e ha avuto un incidente? Sì. Com'è successo? Com'è allora, potuto accadere? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Io sono incappato nel tasso zero, ho acquistato una camera da letto, sì. Poi quando mi sono reso conto che era tutto altissimo il TAI, ho immediatamente estinto per contanti l'acquisto che avevo fatto, se non che la finanziaria a un certo punto che ha fatto? Ha prelevato questo importo, anziché addebitarmelo diciamo su questo acquisto che ho fatto, le è andata a considerare sul... ciò che avevo già acceso, chiamiamo una banca, perché avevo una carta Revolvi di un centro commerciale. E fino ad oggi ho chiesto lo storico, ho chiesto tante cose per capire perché ciò era avvenuto e non mi danno risposta. E se vuole posso anche dirle chi. Allora Dante, lasciamo perdere il nome di questa società, magari poi ce la racconta in privato in modo tale che possiamo un po' più correttamente, non avendoli qua, indagare, visto che la situazione mi sembra un po' delicata. Anna Vizzer, insomma, cosa le suggerisce il caso di Dante, anche se non ho ben capito come la finanziaria si è rivalsa anche su un altro finanziamento in corso. Cioè, come se la corso, finanziaria non fosse arrivato il pagamento in contanti del residuo, quindi a quel punto si è rivalsa su un altro prestito che aveva venuto. E come se avessero già un accordo le due finanziarie? O magari era la stessa finanziaria che aveva messo la carta revolving, però evidentemente non conoscendo bene la questione non si può arrivare a una conclusione definitiva. Detto questo, insomma, ecco, siccome voi poi nella vostra inchiesta, a prescindere dal risultato, date anche, come dire, le solite istruzioni per l'uso, per poter fare una sottoscrizione di questi finanziamenti nella maniera più consapevole possibile, ci può aiutare allora, prendendo a spunto il caso di Dante... Sì, su questo. Nel senso che ovviamente noi partiamo sempre dal principio che bisogna confrontare più offerte, quindi prendersi un po' di tempo per confrontare le offerte di mercato, chiedere tutte le informazioni perché esiste una normativa che impone comunque all'intermediario di consegnare contratto e foglietti informativi, magari anche impiegare un po' di tempo per trovare queste informazioni. La nostra inchiesta ha dimostrato che è un po' difficile, però abbiamo visto che ci sono dei posti in cui effettivamente le informazioni vengono date, quindi ovviamente premiare i luoghi in cui la trasparenza effettivamente ha la meglio. E attenzione poi al totale complessivo dei prestiti che si hanno in essere, il totale delle rate mensili non deve mai superare il 30% del reddito proprio mensile. Questa mediamente la regola aurea, esatto, sulla quale Filotto scuote la testa, glielo dico già. Perché questa percentuale del 30% dell'indebitamento massimo mensile che ogni famiglia dovrebbe ragionevolmente... Perché il 30% può essere troppo o troppo poco. Allora quello che noi invitiamo a fare è, diciamo, andare sul nostro sito, cioè su un sito che noi abbiamo promosso, che è www.monitorata.it, che permette di calcolare qual è, diciamo, se una rata è sostenibile o meno. Dico che può essere troppo, perché per esempio se uno ha un lavoro precario, uno stipendio che è già sotto certi profili, diciamo, di dimensioni contenute, un terzo potrebbe anche essere troppo. 1000 euro di stipendio, un 30% su 1000 euro, certo. Potrebbe mettere la persona in serie difficoltà, mentre... Posso aggiungere che sicuramente a questo punto la finanziaria non farebbe prestiti ulteriori, nel senso che esiste un'istruttoria che dovrebbe garantire anche da questo punto di vista il consumatore. Si spera che le finanziarie facciano bene il loro lavoro, ecco, che diano crediti e debiti responsabili alle persone che riescono a pagare le rate. Questo senz'altro, ma noi vogliamo aiutare anche i consumatori a ragionare in maniera indipendente, quindi credo che sia utile fornire strumenti anche di autovalutazione. Io tra l'altro devo chiudere, abbiamo 30 secondi di tempo, professor Filotto. Insomma, questa direttiva al credito al consumo che il nostro paese dovrebbe recepire, questa europea, entro il 2010 se non sbaglio, insomma, che cosa dovrebbe comportare come novità, anche se in 15 secondi mi rendo conto di chiederne l'impossibile. È un po' difficile comunque, in linea di principio dovrebbe garantire maggiore informazione, non sempre questo obiettivo, che è pienamente condivisibile, viene realizzato con gli strumenti più adatti, perché in molti casi la direttiva prescrive prescrive un, diciamo, di dare informazioni troppo articolate, troppo quindi complesse. Dobbiamo andare sulla strada della semplificazione. Bisogna andare sulla strada della semplicità perché i consumatori possano scegliere nel momento in cui stanno scegliendo sulla base degli elementi più rilevanti, più chiari e più immediatamente. Vi aiuteremo a fare un po' di lobby quando se ne discuterà nel nostro paese in Parlamento. Sono appunto anni che ci proviamo. grazie a Umberto Filotte e Anna Vizzeri per essere stati con noi. Salva Danaio torna domani, buona giornata a tutti.